Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Terminato il sound check, Maurizio, ritorniamo nuovamente in diretta. Che bella, la diretta, la radio e la diretta è la cosa più bella che esista. Radio e diretta su un connubio perfetto. Allora, presentiamo questa sera un gruppo particolare, musica prog, no? Sì, esattamente, vengono da Ferrara, li ringraziamo di essere venuti stasera da Ferrara con grande caldo, ma la musica va al di là del grande caldo. Grazie a tutti. Allora, li presentiamo una alla volta. Una alla volta. Sono i Marchesi Scamorza, sì, i Marchesi Scamorza sono Enrico Bernardini, voce e chitarra acustica. Buonasera a tutti. Enrico Cazzola alle tastiere. Buonasera. Lorenzo Romani a chitarra elettrica. Lo salutiamo un po' distante, ma l'abbiamo salutato noi. Alessandro Padovani alla batteria. Ciao ragazzi. E Paolo Brini al basso. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora ragazzi, prima di iniziare volevo fare un comunicato di un gruppo qui di Castelfranco Veneto che stanno organizzando l'Italia Rock Style Romano d'Isonzo a Gorizia. È un festival delle bande rock che cantano praticamente in italiano. Venerdì 30 si esibiranno gli Eva Zero, i Crossing e i Vinolia, e poi il 31 si esibiranno appunto i Mustang, e Tendenza Zero e poi un altro gruppo che purtroppo mi viene in mente il nome che mi sfugge. Quindi vi ricordo questi due giorni, al 30 e 31 agosto, all'Italia Rock Style a Romano d'Isonzo, Gorizia. Bene, partiamo questa bella carrellata musicale fino alle 24 con i Marchesi Scamorza. Una domanda semplice: l'idea del progetto, come è nata, caro vocalist? Ah beh, allora, visto che Palita è davanti, grazie per la parola. Allora, beh, innanzitutto l'idea parte come una cover band. Noi di nasciamo cosa? Come cover band di PFM De André. Ah beh, avete scelto molto semplice. Mica no, tanto. Diciamo che ci siamo subito messi al lavoro in modo abbastanza brusco e pesante, perché abbiamo avuto, diciamo, venivamo da esperienze musicali diverse e abbiamo trovato, diciamo, nel prog, e in particolare nel rapporto prog De André, perché alla fine PFM De André sì, è quello che ci gustava di più, ci avvicinava, ecco. E quindi siamo partiti come cover band. Poi abbiamo fatto un nuovo acquisto durante il percorso, che è il dottor Enrico Cazzola alle tastiere, che adesso suona anche la chitarra stasera. No, è qua. Ah, lui, okay. Lui scusa. C'è un tastierista e sì, chitarrista, esatto, però mi sono sbagliato. Tastierista e chitarrista. Sì. E abbiamo appunto acquistato questo fenomeno. Questo fenomeno ha una maglietta particolare. Adesso il fenomeno viene al microfono e la spiego anche ai nostri ascoltatori. Sì. Dunque, tu hai la maglietta del 2010 Prog Exhibition, l'evento del 2010, 5-6 novembre a Roma, e noi due giorni fa, beh di caso, abbiamo ospitato Tolo Marton, che lui all'epoca faceva parte delle Orme, e nel 2010 ha fatto il ritorno dopo 30 anni con le Orme e ha presentato Prog, un pezzo delle Orme. Hai assistito a questo mega concerto o hai solo la maglietta? No, ho assistito, comprata lì. Comprata lì. Erano, sì, per festeggiare i 30 anni del progresso italiano in particolare. E erano due giornate, dal pomeriggio a mezzanotte. Certo. E l'ho vista entrambe ed presentavano i nomi più grossi del movimento, quindi Banco, Osanna, Orme, PFM con Ian Anderson. Dei Getro. E c'erano anche appunto le partecipazioni di ospiti stranieri. È stato un certo evento, diciamo, molto grande, molto bello, molto bello. E cari ascoltatori, io sono molto innamorato di questa maglietta, perché vedo in questa maglietta Palepoli degli Osanna, vedo Raccomandata con ricevuta di ritorno, vedo Darwin Trip, del Banco, i Trip, ragazzi, i Trip, un gruppo straordinario di Joe Vescovi molti anni fa. Grande. Bene, questo è il progetto, scusate, ma ho dovuto questa digressione, dovevo a questa maglietta. Allora, il progetto è nato, ha avuto un impulso dall'entrata del tastierista. Avevamo Enrico. Già qualche brano inedito, diciamo, ma dal suo arrivo c'è stata una crescita notevole, e sia dal punto di vista compositivo che poi realizzativo, perché nel giro di un anno abbiamo poi scritto tutte le canzoni dell'album e iniziato a registrare. E avete iniziato a registrare. Caro Gil, registrare un pezzo, un brano, un disco prog non è una cosa molto semplice, no. Anche se voi provenite dalla PFM, come cover di PFM e De André, è un po' complesso. Anche fare una scelta prog è complessa, sì. Poi ragazzi giovani che scelgono di fare prog è una cosa un po' strana, un po' diversa. Di solito i ragazzi giovani scelgono gli Iron Maiden o la musica metal. Beh, ci siamo passati tutti. Ma gli Iron Maiden siete passati tutti, più o meno. Sì, perlomeno. Tu hai la maglietta su un po'. Oddio, non c'è. Però ricordo, sai cosa ricordo questa maglietta? Una copertina di Alan Parsons. Alan Parsons, conosco Alan Parsons, ma... Che era praticamente quello che ha scritto, che ha suonato, era l'ingegnere del suono del famoso disco dei Pink Floyd. Non ho in mente queste copertine. Quello, però... quello della mucca in copertina. Ah, la mucca? Ok, mi è venuto in mente. Atom Heart Mada, un classico dei Pink. Allora, ritornando al discorso, avete fatto il progetto, grazie al tastierista che ti ha dato un impulso, e via, siete andati in sala di registrazione. Sì, esattamente. Anche lì è stata un'esperienza comunque difficile, perché era, diciamo, la prima volta per tutti che si registrava così seriamente, e abbiamo trovato tante difficoltà, ci abbiamo messo molto tempo. Alla fine, come primo lavoro, diciamo che secondo la nostra opinione, secondo anche l'opinione di molti, è sufficiente, diciamo. Molto sufficiente, molto sufficiente. Vero Gil, cosa ne pensi? Anche dalla copertina è molto bella, certamente. Molto caratteristica. C'è tanta curiosità. C'è tanta curiosità. Molte cose da chiedere. Esattamente. Allora, visto che abbiamo tanta curiosità, apriamo la nostra finestra. E quando apriamo la nostra finestra, cosa facciamo? Sentiamo il primo pezzo da scaletta. Perfetto. Che abbiamo scelto. Cosa abbiamo scelto, caro Gil, stasera? Lo schiavo di Babilonia. Ecco, adesso lo sentiamo e poi dimmi. Rompiamo il ghiaccio. Sentiamo sto pezzo dal disco e poi ne parliamo assieme. Perfetto. Okay? L'anima che brucia al sole come se fosse di carta, sentieri perduti sui fianchi di un'immensa torre dorata. L'orizzonte lontano sfuma nel cielo, antico confine viene violato, la bilancia si spezza sul peso del cuore, il tempo è solo una speranza. Non ha più paura, orologi muti dentro una chiesa, l'immagine parla più di mille parole, solo una lacrima sarà la tua fine. Sotto l'altare una vita non basta a sentirsi vivo. Scorre la sera, scorre un fiume, scorre la vita, scorre l'amore. Cambian la faccia, cambian le mani, cambiano gli anni che hai visto passare. Viva le anime che hai visto morire, di Babilonia tu eri uno schiavo, l'immensura non può più bastare. Salvati ora dalla tua vita, 21 anni buttati nel buio, da salvatore sarai ricordato. Nessuno dirà qual è il tuo peccato. Sepolcro c'è scritto in spagnolo: pregate per l'uomo peggiore del mondo. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rieccoci nuovamente in diretta. Ci siamo ascoltati Lo schiavo di Babilonia. Una caratteristica del prog, Maurizio, se non sbaglio, che sono questi brani lunghi, dilatati. Lungo. Che bello, lunghi, dilatati. Una jam session, caro Gil, cosa dici? E un critico ha scritto una cosa molto bella. Questo pezzo, soprattutto questo pezzo, ha l'epicità Tara i biglietti per l'inferno. È vero, sono perfettamente d'accordo col critico. È una bella cosa, un bel accostamento. Cosa dite, ragazzi? Voi che siete giovani, però li conoscete i gruppi prog. Mettiti davanti al microfono, caro bassista. Il caso vuole che noi in passato abbiamo coverizzato un pezzo del Biglietto per l'Inferno. Vedi. Vedi che il critico, tutto torna. Proprio ha puntato, proprio giusto. Il prog è una bella cosa, secondo me, un bel genere. E stesso sta ritornando, ha avuto dei momenti di crisi, di ritorno, poi se n'è andato, è ritornato. Però il prog è questo, ha la libertà. È un genere libero, libero di inventare, sì, di esplorare, di allargare a dismisura il pezzo. Sì, diciamo che noi non siamo andati mai troppo oltre con appunto dilungamenti musicali, però è tipico del prog italiano in particolar modo, anche poi pensando all'estero con, non so, gli Yes. Certo, ad esempio, soprattutto gli Yes, che è molto raffinato, esatto, gruppo raffinatissimo. Quindi è una caratteristica fondamentale. Noi abbiamo abbracciato comunque il genere comunque prog italiano perché ci sentiamo molto legati, diciamo, a questa vena musicale. Ecco. Avete anche una vena romantica, nel senso musicale romantica, la melodia. Ero qualcuno vi ha avvicinato alle Orme, che forse il prog più melodico italiano, secondo me. Sì. Il prog, mentre il Banco e il PFM sono più complicati, anche se Banco, molti se lo ricordo, per non mi rompete, un pezzo molto bello, bellissimo, molto melodico, la canzone vera e propria. Mentre le Orme avevano tante canzoni fatte benissimo, cioè riuscivano a prendere le canzoni tipo Gioco di Bimba o qualche altro successo da 45 giri alle cosiddette suite prog come Felone e Sorone. Esattamente. Sì, riuscivano, diciamo, a unire queste due vene, che sono appunto la lunghezza dei brani e anche appunto la facilità di esecuzione, anche la facilità di scrittura, sì, chiaramente. Di scrittura. Forse noi ci avviciniamo di più alla parte melodica del prog, cioè, ecco, perché appunto il Banco è più, cioè c'era una tecnica mostruosa. I Fratelli Innocenzi avevano una tecnica mostruosa. Noi non esageriamo con la tecnica, ci teniamo più al lato espressivo, all'ambientazione. Poetico, ecco. Che difficoltà c'è stata per scrivere, per arginare, per costruire lo Schiavo di Babilonia? Dove è partita l'idea, caro Enrico? Beh, allora, l'idea è partita da un personaggio che è Don Miguel Magnara, è un nobile di Siviglia. A proposito dei marchesi. Ecco, a proposito dei marchesi. Esattamente. È un nobile di Siviglia che ha avuto una vita abbastanza, diciamo, discutibile. Complicata, esatto, possiamo dire questo. e niente, noi abbiamo conosciuto questo personaggio durante un nostro viaggio, appunto a Siviglia, così, in vacanza tra amici. Epoca di questo nobile? Due anni fa. No, epoca. 1600, perfetto. Pieno barocco. Ottimo. E niente, ci siamo un po' innamorati di questo personaggio e siamo anche riusciti a reperire parti del testamento. Ah, però. Che sono servite anche per alcuni versi del brano, sì. Ottimo, è una bella ricerca avete fatto. Abbastanza. Ma io infatti dimmi, caro batterista. Le canzoni prog le vedo anche come, diciamo, un racconto di una storia. Sì, certo. Cioè, il divagare, il raccontare nel testo, è un racconto, secondo me. Applicato alla musica, abbinato, viene fuori la canzone prog anni 70. Sì. Ma di solito il prog ha in se stesso il concept album, quindi il concept album è fondamentale nel prog. Molto spesso gli album Contaminazione, il rovescio della medaglia stessi, hanno fatto tanti concept album. Certo. È lo stesso, anche se il collage delle Orme è una serie di cose, però sono collegati a determinati momenti, per esempio l'immagine delle prime Orme, quando Aldo Taglievieto è venuto qua, parlava delle immagini di Marghera, di Mestre, quindi le immagini che lui avevano scolpite nella memoria, che avevano poi raffinato e l'aveva costruito musicalmente parlando. Certo. Quindi il concept è importante. Poi lo Schiavo di Babilonia, secondo me, è stato uno degli episodi migliori di scrittura di gruppo. Come mai? È uno te? Dei pezzi che è stato lavorato di più da tutti e cinque. Ed è venuto anche meglio, cioè abbiamo messo una cura negli arrangiamenti che in altri pezzi dell'album non ci sono. Questo è, secondo me, uno dei migliori. Sì, è anche un pezzo simbolo dell'album, ecco, sicuramente. Lo fate quando suonate dal vivo, è il pezzo d'apertura? Cioè, no, a metà di metà, solito. No, però c'è sempre, non è mai successo. Sì, sì. Caro Gil, cosa dici di questa epicità, questo brano che si allarga, non a dismisura, si allarga nel modo giusto, perché allargando a dismisura ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere poi diviene una stanchezza allargando troppo, quel tecnicismo esasperato, cosiddetto sbrodolamento che tu mi hai citato. E non è una fase positiva, è una fase negativa. Bisogna, non dico misurarsi, arginare, bella, arginare il fiume della creatività che il prog dà praticamente. Certo, voi siete pronti ragazzi? Sì. Certo. A te, uomo dall'ombra lunga che ti scivola dietro come a dissolvere il bruciore di questa vita qui, come tante tu lo sai, ma vai pure, sfida la sorte, a ogni bivio che incontri divide la mente come un sonno stravolto che ti circonda e non sai come uscire e continui a seguire tutte le tue storie cattive ma profonde, a volte senza un senso, sente pure denso. Così, passando le ore, guardando quei rami che vengono dal mare per sentirsi più libero e vedere più in là, restando così, quasi a pensare a quell'odore che senti svanire e mai più tornare, tornare da te. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, il titolo di questa canzone che non abbiamo fatto a tempo a dire prima, ragazzi. È L'uomo dall'ombra lunga. L'uomo dall'ombra lunga. Perfetto. Il tema principale del disco, che è un concept album, è il tempo. Sì. Il tempo raccoglie i 9 pezzi, mi pare sono 9. Sì, compreso l'intro, sì. 9 pezzi li raccoglie e li unisce con il tempo. Perché il tempo come tema principale, Enrico? Beh, diciamo che all'inizio non era una cosa cercata. Mm. Però abbiamo fatto, diciamo, abbiamo realizzato subito 2 o 3 brani come Lo schiavo di Babilonia oppure Il castello delle stagioni e anche Sentieri di carta che avevano questa cosa in comune. E dopo ci siamo detti perché no, anche perché appunto, come abbiamo detto prima, il concept album è tipico del progressive, quindi certo, assolutamente. Alla fine diciamo che siamo riusciti a convogliare in tutte queste canzoni questo tema. La versione che abbiamo sentito di questo pezzo, chiaramente una versione acustica, cari ascoltatori, nel disco è un po' leggermente diversa, però è acustica in una certa maniera. E a me è piaciuto molto il basso, perché il basso dava il là tutto quanto. Partivi, il basso dava proprio l'input, il basso è la sezione ritmica di una band. Stasera non c'è la batteria, o meglio c'è una spazzolina. appena. E il basso sostituiva la batteria, dava proprio l'input, l'andare, partiamo. È una cosa molto bella, questa è l'idea di iniziare. Chiaramente il disco è diverso, ma qua in versione acustica, l'idea di iniziare con il basso dà un certo senso, un certo peso alle cose. Sì, ho voluto risaltarlo un attimo adesso per creare un ritmo. È più o meno la stessa linea che c'è anche nell'album, certo. In questa canzone. Appunto in sala prova... chi fa i pezzi, chi li crea generalmente chi li crea sono... i pezzi, tutti allora, assieme? I testi generalmente sono solo del cantante, solo di Enrico, anche perché si sente che sono esperienze della sua vita, con qualche correzione del nostro chitarrista Lorenzo. Sì. Più che altro metrica, qualche correzione metrica. Qualche correzione metrica. Mentre gli arrangiamenti sono fatti generalmente da Lorenzo e da Enrico Cazzarola alle tastiere. Io al basso e Alessandro alla batteria. Sì, la sezione ritmica. La sezione ritmica, perché un attimo incastriamo tutti questi vari cambi di tempo. E saremo perduti senza di loro, insomma. Certo, è fondamentale. Incastriamo... C'è da dire che a volte un'idea che io e Lorenzo sviluppiamo da soli non è convincente, poi con l'apporto della sezione ritmica è tutta un'altra cosa. Ma è difficile colorare i pezzi di Enrico, musicalmente parlando. Sì, anche perché generalmente nascono in tipo stanza, uno se li crea da solo e dopo quando li senti magari con il ritmo sotto hanno un'altra resa. Ti dico una cosa positiva dei suoi testi è che lasciano molto spazio all'immaginazione, quindi ci si può lavorare in mille modi. Esattamente. Cioè danno una possibilità anche di allargare l'orizzonte sonoro. Se posso dire una cosa, io sono molto affezionato a questo brano che abbiamo appena eseguito, perché lo abbiamo scritto io e il chitarrista Lorenzo molti anni fa, eravamo ragazzini quando l'abbiamo scritto. Però, avevamo io 15 e lui 16 anni. E quindi ci siamo molto legati a questo brano che, nonostante fosse immaturo, siamo riusciti a farlo rientrare nel nostro primo progetto insieme. È una cosa molto bella. Dando a Cesare quello che dice Cesare, le tastiere le ho lavorate su una base scritta dal tastierista precedente. La ragazza praticamente la... Esatto, che c'era prima. Che salutiamo, che Chiara. Salutiamo, Chiara, no, la Chiara praticamente. Tu l'hai, su questa base precedente, ne hai dato una tua interpretazione. Sì, questo è l'unico pezzo dell'album dove ho trovato già una gran parte delle cose. Precedente, sì, già fatta praticamente. Però vedi, il positivo è stato che questo pezzo scritto con Chiara precedentemente l'avete recepito, ne avete allargato, vuol dire che è un pezzo valido, chiaramente. Beh, sì, questo pezzo è comparso anche per la prima volta nel nostro EP, diciamo, d'esordio proprio, praticamente. Erano 3 brani, diciamo, registrati più che altro per farci un po' di pubblicità. Ho capito. Cioè, niente a che vedere con l'album. Beh, l'album è costruito bene, è registrato bene, anche se... è sempre autoprodotto praticamente. Sì, diciamo sì, che sì, quella è diciamo la quella le cose la pecca. La pecca, sì. Però chiaro ascoltatori, dobbiamo sottolineare una cosa, l'autoproduzione è proprio una esigenza anche non soltanto per fare un disco, anche l'esigenza economica, anche, chiaramente. Assolutamente. Purtroppo l'esigenza economica pesa su certe scelte. Non è così. Pesa molto perché ci siamo comunque affidati a un carissimo amico che salutiamo, che è Christian. Lui ha registrato, diciamo, l'album con noi. Ha registrato bene, dai. Sì, ha fatto un ottimo lavoro, pur lui non avendo mai registrato nulla di progressi. Ah, vedi. Quindi diciamo che ci sono alcune pecche che poi si sentono, ma non è neanche colpa sua, voglio dire, è colpa nostra perché siamo inesperti ancora, non mai ci paragoneremo ai grandi del progressive, ecco. E poi diciamo che sì, dopo il punto di vista economico è sempre rilevante. Molto. Poi come tu saprai, registrare il prog non è... No, non è molto. Infatti, semplice, è molto complicato. Abbiamo già registrato un altro pezzo che uscirà a breve, lì abbiamo optato per una presa diretta che rende cose molto di più. Caro Gil, dobbiamo sottolineare, saranno anche inesperti, però l'album è registrato bene e soprattutto ha avuto tante buone recensioni, e questa è la cosa che vi fa onore per la prima volta, quindi praticamente è la prima volta che vi buttate nel senso positivo nell'ambito del prog. Il prog, ripeto, non è una cosa semplice, è una cosa complicata, bella, bellissima, appassionante, però è complessa, decisamente complessa. Cosa dici della copertina? Tu so che hai visto, hai guardato attentamente la copertina. Io sai che studio molto copertine, testi, curiosità, eccetera. Maurizio, ragazzi, entra proprio nel profondo. Lui è un grandissimo tecnico, un grandissimo intenditore. Io sto un po' su queste cose qui che mi piacciono, un po' tante curiosità. Però una curiosità ce l'ho qui pronta. Questo nome è Marchesi Scamorza e questo titolo del CD, La Sposa del Tempo. Chi me lo spiega? Do la parola a Paolo Brini. Da tanto medievale. Allora, intanto il nome Marchesi Scamorza nasce ovviamente da un modo per far rimanere nella testa delle persone il nome. Allora avevamo pensato un qualcosa di simpatico, ecco, mettiamo così. Il nome Marchesi doveva rimanere, ci piaceva. E dovevamo abbinarci una parola, come tu hai detto, simpatica, no? Una sera eravamo a mangiare a casa del batterista. Vedi caso. Intorno alla tavola le idee migliori. Le idee vanno e vengono, come diceva Fabrizio, vanno e vengono. Vanno e vengono. questa pasta con, insomma, un sugo di scamorza. Vedi. Ci rimase questa parola scamorza, che simpatico abbinamento. Ci siamo messi a ridere e abbiamo deciso in quel momento Marchesi Scamorza, ecco, di associarlo a un nome Marchesi. A me dava l'idea, visto che questa copertina un po' stile medievale, chissà cosa avranno inventato Marchesi Scamorza, saranno dei nobili. Dobbiamo dire che ci abbiamo preso dei mangiatori. Dei nobili mangiatori. Sì. C'è da dire che si lega bene anche a certi nomi del prog, tipo certo, raccomandata, sì, con ricevuti di ritorno, quindi involontariamente c'è stato nomi anche un po' particolari. E poi mi pare un critico ha scritto sulla copertina, dal punto di vista proprio artistico, caro Gil, vi ha paragonato, vi ha avvicinato a Salvatore Dalì, è una cosa. Chi ha disegnato la copertina? È il nostro chitarrista Lorenzo. Ah, è sempre lui, fa un po' di tutto. Sì, è un tutto a fare. È tutto a 360 gradi praticamente. Io ho fatto il bozzetto con lo strumento. Avvicinati un momento, Lorenzo. Sì, io ho fatto il bozzetto e un nostro amico l'ha realizzato graficamente col computer. Bello. Ha fatto quello che volevamo, ecco. Sì. Bello, è stato bello. E lo ringraziamo, Jacopo. Sì, grazie Jacopo, ciao. Però c'è ancora una piccola parte che non ho avuto risposta, Maurizio. Quale penso parte? Penso che sia legato al tempo che parlava prima tempo, Maurizio, sì, no? Sì, esattamente. La sposa nel tempo. Esattamente, non avete ancora dato il significato del titolo del disco. Beh, appunto, diciamo, come concept album ci è sembrato abbastanza consono tirare in ballo il tempo anche nel titolo, ecco. Certo. Anche se appunto in tutto il disco non c'è una canzone che si intitola La sposa del tempo. Quindi il titolo raccoglie tutte le canzoni, ecco. Ecco, è una cosa interessante. Adesso Gil mi fa cenno di mettere su un pezzo da disco, adesso lo mettiamo fra qualche secondo. Una cosa interessante che spesso e volentieri si usa nel prog, di solito la title track non viene citata. Il titolo del disco spesso non è citata, o è citata in qualche riga nel testo. Probabile. Ma è proprio una caratteristica del prog. In questo caso noi citiamo... Esattamente. Lascio immaginare. In questo caso citiamo la sposa nella canzone Il Castello delle Stagioni. Vedi, non è il titolo della canzone, è solo una citazione. Citiamo la sposa, ma il tempo no. Vedi, anche questa è una caratteristica, secondo me è un Dà modo come... Dà spazio all'ascoltatore di immaginare quello E il prog è anche invenzione, è esatto, libertà di inventare. Sì. Sentiamo il pezzo allora, caro Gil, sì. Che cosa? Ci ascoltiamo un pezzo che dura 7 minuti. No, va bene, va benissimo come si usa nel prog, qua non si taglia niente, chiaramente. È Autunno, che è un video tra l'altro ufficiale del gruppo che consigliamo a vedere, poi ritorneremo in studio e ne parleremo. Benissimo. Thank you. parole di piombo, parole di carne. Sotto le chiese, sotto le suole, fiero e vistoso è il tuo cavaliere. Senza la bocca per respirare, esiste per tutti la primavera. Tirala fuori la coda di paglia, bruciala, bruciala, bruciala ancora. Vestiti ancora con quelle lenzuola. Bruciano gli occhi spenti, la mia voce sentirai. Non avrai paura nella notte. Laterale, non ci provare a passare la croce, ognuno alla sua e questo è importante. Bruciano gli occhi spenti, la mia voce. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Live a Blu Radio Veneto, ragazzi, 22:51 minuti primi con i Marchesi Scamorza per presentare il loro CD La Sposa nel Tempo. Con noi Enrico Bernardini, Enrico Cazzola, Lorenzo Romani, Alessandro Padovani e Paolo Brini. Maurizio, 7 minuti da ascoltare fino all'ultima nota. Ed è giusto che il prog deve essere così. Robert Fripp ha detto in una frase che ho tirato voi da una vostra intervista: la musica è completamente autosufficiente, essa non ha nessun bisogno di che si parli di lei. Qui in questo caso non è vero, perché dobbiamo parlare di lei, della musica. E dobbiamo parlare di questo pezzo che ha un inizio dolce, delicato, ruspante, come ha detto Enrico, sì. Chitarra scheletrica, e poi comincia il vero prog, cioè si allargano le note, viene dentro la tastiera, viene dentro soprattutto la chitarra elettrica di Lorenzo, che distorce, ma non distorce per rovinare il pezzo, per abbellire il pezzo, poi si ritorna al tema nel finale. È una caratteristica del prog, cambiare e ritornare. Il famoso stop and go che fa la batteria, tu fai chiaramente, ti fermi e riprendi, come batterista prog di natura fa questo. Certo. Mettiti davanti al microfono. Certo, sì, è uno stile magari diverso, che è anche più impegnativo, però... Sì, è più impegnativo per il batterista sicuramente. È il prog anni 70 che lo richiede, per cui si fa... A me piace... E io nel mio piccolo cerco sempre di avvicinarmi più allo stile anni 70 rispetto... Sì, ti avvicina, però il tuo stile è quello, ti avvicini, sì. Perché prendi, non ispirazione, hai sentito tante volte i dischi di anni 70. Io sono venuto su con PFM, tutti quei gruppi lì, anni 70, per cui come orecchio, stile musicale, sono collocato in quell'epoca, diciamo. Cari ascoltatori, voi direte, ma tu esageri? Sì, a me piace particolarmente il prog, esagero, sono di parte, se volete che faccia. questo lo sappiamo. Sì, hai capito. Però è positivo entrare dentro, io sono qua dentro insieme con la band, è come se suonassi io. E sembra una cosa, una battuta, ma è proprio così. Entri dentro nel meccanismo, nella musica, e fai parte anche se non suoni, praticamente. Beh, è una cosa positiva. È una cosa molto positiva, ti ringrazio. Anzi, ce ne vorrebbero di più delle persone, esatto, che ce ne vorrebbero molto di più che ascoltano così. Ma perché la musica bisogna sentirla, il prog ha questa caratteristica, bisogna ascoltarlo tutto, non solo a spezzoni. Perché è una cosa negativa che spesso sento anche da conoscenti e amici, e si spaventano, vedono 8 minuti. Beh, cosa farai in 8 minuti? Facciamo prog in 8 minuti. Certo, ed è anche poco. Ricordiamo ai tuoi amici che un certo pezzo che si chiama Stairway to Heaven dura 9 minuti e 12. Ecco, e quindi ed è un mostro della musica. Esattamente, quindi cosa vuol dire? Vuol dire, se un musicista, un autore come voi, avete deciso di suonare per 8 minuti, vuol dire che il pezzo aveva la validità di 8 minuti. Che poi noi non è che calcoliamo, noi suoniamo finché ci va, finché sentiamo che quel pezzo non è pronto. Gil, cosa dici? Io volevo anche dare spazio un attimo anche alla musica immagine, quindi questo autunno legato a... Una cosa, questo non era autunno. Forse ho scritto male io. Quale? Questo brano non era autunno, era Sentieri di Carta. Ah, ecco, allora ne parliamo dopo. Parliamo di Sentieri di Carta, questo pezzo, questo brano. Io mi sono permesso all'inizio, mentre il pezzo andava, di avvicinarlo, solo questa fase chitarristica iniziale, alle orme, ma solo un avvicinamento così, perché giocate con la melodia, e la melodia è importante, non siete amelodici, melodici, che poi la melodia viene sviluppata, allargata, finché vogliamo, ma la melodia fa parte del vostro DNA. Beh, sì, ne siamo abbastanza fieri di questa cosa, perché spesso magari si perde, soprattutto con i brani lunghi. C'è la tendenza da troppo tecnici. Esatto, tecnicismi e anche cose sinfoniche, ecco, però la melodia resta abbastanza forte, ecco, nei nostri brani. Insomma, è una cosa bella, anche dal punto di vista, secondo me, vocale, cioè del canto. Il canto melodico è molto meglio. Ci favorisce i tuoi pezzi, esatto. il tuo modo di cantare. Una cosa a cui tengo è comunque la possibilità di farmi capire dal punto di vista proprio anche emotivo. e troppo, cose troppo sinfoniche, troppo, diciamo, precise dal punto di vista tecnico, non danno spazio a questo. E il cantare in italiano è fondamentale, sì. Farsi capire. Sì, anche se, e poi i testi del prog sono sempre particolari, hanno una certa valenza, però in questo disco parlate del tempo abbastanza chiaramente, parlate, anche se a determinati colori, sì, a determinati, sì, sì, panorami, tue invenzioni sonore praticamente. Sì, appunto, come abbiamo detto prima, è il tema fondamentale, ma è molto spezzato. È molto spezzato. È molto spezzato e diciamo che parliamo del tempo con un contorno che resta abbastanza onirico. Cioè, ecco, come la copertina. Ecco, sì, come la copertina, esatto, abbastanza onirica. Esatto. Bene, sono le 22:56. Caro Gil, adesso abbiamo deciso di suonare. Che cosa suonate, ragazzi? Facciamo un altro brano che è sempre del nostro disco, ovviamente l'inedito lo lasciamo come sorpresa finale. Certamente, certamente. E si intitola Quelle volte. Benissimo. Sei nel buio e prendi una strada che non sai dove va. Quando ti perdi e vorresti buttarti, ti salva una stella che ti porta con sé. Quando aspetti qualcuno che ti salvi, ma non arriva, sei solo. Apri le tue porte e immagina che il mondo sia tutto da inventare. Quante ne potresti fare se pensi a qualcosa che ancora non c'è? Quando sai che non c'è niente da fare, chiudi le tue porte e ricomincia a sognare. Quando il sole è in alto nel cielo e tu sei più in alto, sei più in alto di lui. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ferrara, questo gruppo arriva da Ferrara, Maurizio. Esattamente, viene da Ferrara. La città dei Baskers. La città dei Baskers. Sì, avete mai suonato in strada? No, non ci è mai capitato. Basker Garden però abbiamo suonato. Sì, al Basker Garden, che è una manifestazione praticamente contemporanea per le band appunto emergenti di Ferrara, quello sì. Bene. Sul palco però, non per strada. Vedi, una cosa da sottolineare in questo pezzo: io ho visto Alessandro che purtroppo aveva le spatole, non aveva le bacchette, ha tentato disperatamente di usare le spatole come bacchette. È così, Alessandro, volevi dare un impulso sempre maggiore al pezzo, sempre maggiore, perché volevi suonare con le bacchette, c'è poco da fare. Io sono così. Invece, io le spatole ce le ho, però potrei far di meno anche. Nel senso che sono così, sono ritmico. Lo so, però è positivo, perché io ho notato, perché ero a qualche centimetro, e ho notato musicalmente che questo pezzo aveva bisogno del tuo impulso, della tua verve, e dalla tua verve sono tutti quanti ti hanno accompagnato. Poi abbiamo due tastiere, in questo momento Lorenzo e Enrico suonavano le tastiere, e poi Enrico, l'altro, il cantante, aveva la chitarra. Sì. E poi c'era sempre il basso è fondamentale, il basso dava sempre, lui c'è sempre in ogni caso, perché dà sempre l'input iniziale, finale. E poi una cosa bella di tutti i pezzi prog, anche questi di questa band Marchesi Scamorza di stasera, questo andamento iniziale in un momento, poi viene cambiato totalmente, riprende tutti i momenti diversi, sempre una mini session nel pezzo, praticamente una mini suite, possiamo dire, nel pezzo. Sì, è una cosa che è tipica del prog, che noi utilizziamo, tipica anche vostra, esatto, in tanti brani. Questo, nonostante tu abbia detto bene, è uno dei brani più semplici relativamente. Cioè, qua stasera Alessandro ha cercato di dare un impulso sarebbe maggiore. Sarebbe meno semplice se lui avesse potuto suonare la batteria. Perché non hai portato la batteria, Alessandro? Dopo stavamo fuori noi, però. Sì. È così piccolino. No, io sto scherzando, chiaramente. Sì. Però è bello, è stato positivo. Cioè, ripeto, cari ascoltatori, i ragazzi hanno fatto una versione acustica. Loro non sono abituati a fare versioni acustiche. Il prog ha bisogno dell'elettrico. Lorenzo mi insegna, bella chitarra che distorce. Però stasera, per esigenze radiofoniche, mi è venuto bene lo stesso, secondo me. Speriamo che sia piaciuto agli ascoltatori. Salutiamo Alberto Prisco, nostro direttore artistico, che è fondamentale nella scelta di venire qua un stasera. Un saluto e un grazie speciale. Ringraziamo. Grazie. E anche salutiamo il nostro regista, che adesso fa le fotografie al buio. Regista, fotografo, fa un po' di tutto. Bene ragazzi, adesso, in questo momento, sono le 23.05, c'è una cosa che non vi ho spiegato prima. Sorpresa. C'è una sorpresina che Gil sa, che adesso Gil presenta la sorpresa delle 23.05. Ne abbiamo tanti questa sera. Ne abbiamo tanti, sono in 5 stasera. Allora ragazzi, vi mandiamo su un'isola deserta, vi concediamo qualche strumento, però vi portate con voi quanti CD? 3 CD a testa, ok? Non di più. Dovete decidere ognuno di voi quale CD portare. E non si può copiare, come regola fondamentale di Rockaway, non si può copiare. Ognuno sceglie la propria terzina, praticamente. Chi vuole cominciare? Non so, Paolo. Paolo, vuoi cominciare te? Dai. Ecco, il nostro bassista. Gli album di... Sì, quello che vuoi, un'entità musicale che tu ami particolarmente. Un album che ami, un cantante che ami. Ce ne sono tantissime, una domanda molto difficile. Lo so, ma siamo. Vedete, il motivo è tecnico: siamo in 5, 5 per 3 fa 15, e abbiamo solamente un'ora scarsa di trasmissione. Guarda, probabilmente poi porterei qualcosa di un po' diverso dal prog. Che benissimo. Da ragazzino andavo matto dei Cream, porterei. Un gruppetto da niente: un certo Gigi Baker, un certo Eric Clapton, un certo Jack Bruce. Era un gruppetto da niente. Sicuramente mi porterei The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. E qui non hai prog, o quasi. Dimmi, perché The Dark Side e non qualche altro disco? Ho fatto tante volte questa domanda, ma tutti quanti pescano The Dark Side. Perché è un album strepitoso. Mm. I Pink Floyd non sono un genere, sono solo i Pink Floyd. Hai detto una bella cosa. È per quello che per quello che uno rimane così colpito da un album del genere. A proposito di Pink Floyd, sei andato a vedere Roger Waters a Padova? No, devi chiedere al chitarrista che è rimasto folgorato. Dopo quando arriverà il suo turno cercheremo di capire, perché io ho sentito il nostro collega che è andato a vederlo e lui ha visto ben circa 1000 concerti. Stefano Dainese salutiamo benissimo, ha visto 1000 concerti e un concerto come ha fatto Roger Waters a Padova qualche giorno fa non li ha mai visti in 1000 concerti, ma dopo ne parliamo con te visto che eri davanti. Dimmi, avevi finito la tua terzina? Mi porterei suonare dalla PFM. Ecco, un album non conosciutissimo ma molto interessante. L'ho ascoltato in questi ultimi mesi, mi piace da me. Abbiamo anche noi in vinile nel nostro reparto dischi, suonare. Caro batterista Alessandro, tocca a te adesso. Beh, sicuramente qualcosa di Jethro Tull. Che cosa? Probabilmente Aqualung oppure Thick as a Brick. Ah, Thick as a Brick è un album del famoso album che per me è una cosa fantastica, è un capolavoro. L'album del giornale praticamente, con la copertina di un giornale, ma sì. Spiega tante altre cose. Quello è un concept album al 100%. Vediamo se Gili riesce a pescare il Jethro. Ma spiega tante altre cose. Eccoli qua. Eccoli. Dimmi. Ce ne sono veramente tanti che... Probabilmente qualcosa della PFM. Non suonare perché per regola precisa non si può citare lo stesso disco. Story. Il PFM Story. Ah, una raccolta praticamente. Raccolta, perché sì. Io davanti ho c'ho storia di un minuto, mi pare. Sì, perché io vedo la maglietta del nostro Enrico. Sì. Mi fa da contorno. Bello contorno. Dopo lo fotografo la maglietta, è molto bella. E non saprei come terzina. Come terzo? Come terzo. Perché mi trovo abbastanza indeciso. Una scelta. Ma mica solo italiano, chiaramente. Sai che non so dirti. Vabbè, magari te lo dico dopo. Giriamo il turno. Lorenzo, adesso prima di cominciare a parlare della terzina, mi devi dare in 30 secondi, un minuto ti do, l'effetto che hai avuto vedendo The Wall dal vivo di Roger Waters. È stato spettacore, proprio a livello di show. Quante ore sei arrivato prima? Sono arrivato alle 16 circa, il concerto iniziava alle 21:30, sono riuscito ad arrivare praticamente sotto al palco e è stato qualcosa di meraviglioso. Penso che come spettacolo una cosa del genere sia difficile da Cosa ti ha dato una cosa simile? Un'esperienza unica, proprio un concerto indimenticabile. Tanto musicisti straordinari. Sì, bravissimi. Poi, a parte le canzoni, i musicisti, anche il palco con un muro di 200 metri, effetti speciali, è stato proprio travolgente. E poi mi hanno detto che, Stefano sempre mi diceva, che il chitarrista che... faceva parte della band, era David Gilmour praticamente. David Gilmour, no. Però suonava come lui. Sì, sì, cioè, io ho anche visto David Gilmour da vivo qualche anno fa e ovviamente si sente che non era lui, però era comunque bravissimo. Era bravissimo, Roger Waters li ha scelti bene. Quindi passiamo alla tua terzina. Io ci metto, anche se l'ha già detto lui, sicuramente The Dark Side of the Moon. No, non puoi dirlo, le regole non sono precise. No. Ci sono 14 dischi dei allora Pink. Allora metto quello successivo, Wish You Were Here. Benissimo, ho sempre Syd Barrett nella luna, perché vorrei che fossi qui dedicato a Syd Barrett. Sì. Poi ci metto Abbey Road dei Beatles. Ecco, come mai Abbey Road dei Beatles? Perché mi sono sempre piaciuti e quello lì... anche una perfezione sì, è perfetto. E quindi per questo lo scelgo. È un album meraviglioso, sì. Abbey Road, uno dei tanti album meravigliosi dei Beatles. Adesso stiamo sentendo i Beatles all'inizio di carriera, però non importa, i Beatles sono belli sia all'inizio sia alla fine di carriera. Quello lì forse è il mio preferito. Abbey Road. E come terzo non saprei che dire. Anche tu sei in difficoltà come sono Alessandro. Sono in difficoltà. Dobbiamo fare la gira un'altra volta, la ruota dopo però, Ti do ancora 10 secondi. Non lo so. Vabbè, passiamo. Dimmi. Concerto grosso del concerto New Trost. Ma non si possono dare i suggerimenti. Vai Enrico, tocca a te adesso. Allora, io direi 17 Re di Litfiba. Bene, come mai hai scelto 17 Re di Litfiba, uno dei primi album di Litfiba? Beh, intanto perché i primi album di Litfiba per me sono una cosa unica. Peluso cantava in modo diverso. Sì, no, ma poi secondo me sono un'altra ambientazione. Sì. Quei dischi lì sono superiori a. Poi io con quell'album lì in particolare ci sono cresciuto, ho iniziato a suonare con quell'album lì. L'hai sentito tante volte. Sì, lo so a memoria. E poi Magician World e Dream Theater, che è uno dei, un altro dei miei gruppi base. È un gruppo molto interessante, Dream Theater. Che pur essendo più metal, sono tra i capostipiti del genere del prog metal, però insomma io sono di parte. Sei di parte, molto di parte. E poi direi, anche se adesso non è proprio il massimo, Sopravvissuti e Sopravviventi di Ligabue. Come mai hai scelto un album di Ligabue? Perché è tra i miei fondamentali Ligabue, anche se non lo seguo più da anni. Però quel disco lì secondo me era... Posso chiederti perché non lo segui più da anni? Perché ha cambiato genere o il genere è sempre lo stesso? No, assolutamente. Non attaccarmi Ligabue, Maurizio. Non attacco nessuno. Voglio solo sapere la motivazione. Sei passato ad altri. A parte che ho cambiato i gusti. Hai cambiato i gusti, ma io, per carità, io è un grandissimo professionista. Però... come è diventato adesso non lo reggo, non riesco a reggerlo. Al tempo i primi dischi quelli li ho divorati, adesso proprio infatti non lo seguo più dal 2001 più o meno. Non sono d'accordissimo, comunque va bene. Perché caro G? Perché per me Ligabue ha sempre continuato un suo stile, un suo genere. Non lo trovo cambiatissimo nel tempo. Il suo rock rimane sempre quello, certamente un po' diverso rispetto all'inizio, però lo vedo sempre in continua evoluzione. Non vedo come sì, l'arretramento. Sì, vabbè, è una continua evoluzione, però non la seguo... Cioè, diciamo che ho smesso io di... Però sì, per evoluzione, sì, quello niente da dire. E questi, ecco, sono più che tre dischi, i tre filoni musicali che seguo da quando ho iniziato a suonare. Perfetto. Caro Enrico, tocca a te adesso. Tocca a me. Mi stanno già guardando male perché sanno che io ho dei gusti un po' particolari. Però vabbè. No, allora, io mantengo, diciamo, la tradizione prog e dico Passepartout della PFM. È un altro disco che non è conosciutissimo. Non è conosciuto e mi ha colpito soprattutto dal punto di vista dei testi. Cioè, io che scrivo, certo. Io ho visto nei Cavalieri del Tavolo Cubico e l'apice a cui io vorrei arrivare. Cioè, insomma, ci siamo capiti. Certo. Poi dico un gruppo che ho scoperto ultimamente, sono gli Eloi, sono un gruppo tedesco. E non li conosco. E dico Colors del 1980. Ah, quindi un gruppo che ha parecchi anni sulle spalle. Sì, per reperire un loro CD l'ho dovuto ordinare direttamente dalla Germania, perché non li producono più tipo da 10 anni, penso. E che genere fanno? Prog tedesco. In Germania c'è anche lì una discreta cultura. Molto grossa cultura del prog. E poi dico Vasco Rossi, perché è il mio mito musicale. C'è chi dice no. Sì. Un vasco dannata, sono sì, decisamente. Chi mancava alla lista? Mi pare. No, lei l'ha già fatto. Tu hai Alessandro. Ma io mi trovo ancora indeciso, però ti dico. Dimmi. Anche Lorenzo è dopo. Deep Purple Made in Japan. Bene, un album dal vivo, forse uno dei più belli dal vivo, assolutamente. Perché sono molto legato ai Deep Purple, perché da quando avevo 12 anni in poi li ho sempre ascoltati. Da Smoke in the Water in su. Sì, tutto. Qualsiasi cosa mi ha avvicinato proprio alla batteria. Ma c'era tuo fratello più vecchio oppure no? No, il mio ex insegnante di batteria che saluto, Fabrizio Pasetti. Ian Pace allora. Sì, mi ha proprio avvicinato a Ian Pace e da lì dopo... Dopo è cambiato il mio stile, però all'inizio ero così, di Purple fino in fondo. Lo sai che MPS è un veneziano d'adozione, quindi viene spesso e volentieri qui dalle nostre parti. Sì, sì, ma... Fa un sacco di fa un sacco di date. Di date, sì, e sì, poi sì. Fa delle scuole, dei corsi veri e propri qua dalle nostre parti. Sì. È un grandissimo batterista di MPS. E poi ti dico la Dave Matthews Band. Ecco, bello, interessante questa. Abbiamo sono arrivati 4 adesso. Facciamo un'eccezione. È interessante quello che dici, perché ami David Matthews Band. Tanto dal vivo sono strepitosi. Dal vivo. Li ho visti dal vivo e mi sono innamorato. Sono strepitosi. Sì. Li ho visti qua a Padova, appunto. Una cosa fantastica. Il batterista, io penso che Carter Beauford, penso che in questi tempi sia uno dei migliori al mondo, perché è una cosa incredibile. E poi sono capace di amalgamare amalgamarsi benissimo con 3000 cose, sembra un'orchestra. È vero. Ed è una cosa, una gioia per le orecchie sentirli, perché sono veramente... È perfettamente d'accordo, sono d'accordo con te, sono amatissimi negli Stati Uniti, in Europa un po' meno, forse qualcosa anche in Inghilterra. Anche perché il cantante è bravissimo, è bravissimo. ha proprio un bel timbro, un bel gruppo da ascoltare. Sono delle vere e proprie star negli Stati Uniti. Hanno fatto un sacco di dischi, moltissimi dischi dal vivo. In Europa sono amati, in Inghilterra, ma non tanto negli altri paesi. In Italia sono un po' di nicchia. Però quando li hai visti a Padova, ha fatto un'ottima esibizione. Sì, come sono venuto a casa, ho scaricato la discografia. Vedi, immediatamente. Lorenzo, tocca a te. Non ti abbiamo dimenticato, assolutamente. Allora, per tornare un attimo in Italia, dico Anima Latina di Battisti. Bello, adesso mi spieghi perché la scelta di Anima Latina di Battisti. Perché secondo me il suo, con gli arrangiamenti più particolari, anche con i testi più ermetici, e c'è anche sonorità derivanti da altre culture, quindi mi piace questo connubio di stili e culture. Perfetto, hai fatto una disamina totale e perfetta, e ti spiego anche il perché. Un altro musicista che è venuto qua a suonare la scorsa settimana ha fatto lo stesso ragionamento. Anima Latina non è un disco facile di Battisti nel senso tradizionale, pure è stato scritto come Mogol, eccetera. È un disco innovativo, da cui, secondo me, Battisti, da Anima Latina, ha cominciato a fare un percorso di innovazione che l'ha portato da Pannella, praticamente. Esatto. Ha finito il tour, cioè il modo di partecipare con Mogol, e ha trovato un altro partner musicale. Però lui era sempre stato avanti e continuava ad essere avanti, anche nei dischi cosiddetti elettronici, esatto, che ha fatto con Pannella. È bello, bello, mi fa molto piacere. Abbiamo citato il Battisti, dimmi. No, dicevo il Bellissimo. No, sì, Anima Latina. Abbiamo trovato il Battisti, abbiamo citato il Battisti un po' diverso, sperimentale possiamo dire. Ok, 23-18, cosa dici, caro Gil? A questo punto, ragazzi, ci ascoltiamo autunno. Sentiamo autunno, okay, finalmente. Ok. Chissà cos'è la luce del mondo, questa purezza che ci gira intorno. Portami via con queste foglie d'autunno. Ora non sento più tonfi sordi di tutti quei sassi lanciati nel vento. Portami via quelle stelle lontane. Gialle come la luna, pace del mondo, questa purezza che ci gira intorno. Portami via con queste foglie d'autunno. Cinque in contropiede, ragazzi, non avevo preparato lo stop, ammetto, quindi ero concentratissimo su un'altra cosa. Allora, a questo punto possiamo parlare anche di questo video, ragazzi, legato proprio a questo brano. Prendo la parola. Bene. Allora, intanto devo ringraziare in assoluto i ragazzi di Catalmedia con i quali abbiamo realizzato questo video. E questo video è visibilissimo su YouTube e anche sul nostro, diciamo, sulla nostra pagina Facebook. E è stato un video realizzato in condizioni estreme, perché quel giorno diluviava, anche se non sembra dalle immagini. Però eravamo veramente fradici e infreddoliti, e siamo andati a girarlo tra Emilia Romagna e Toscana in un borgo abbandonato che si chiama Castiglioncello. Ah, bello. E praticamente, appunto, con le idee di questi ragazzi che sono veramente in gamba, e li raccomandiamo a chiunque sia a Ferrari dintorni, e con il loro aiuto e comunque le idee di base che avevamo, è venuto fuori, secondo me, un bel video, ed è stato molto utile anche a livello poi pubblicitario e tutto il resto, tutto ciò che ne deriva, ecco. Anche perché io sono del parere che video e immagine da... Sì, contributo. Nel nostro caso poi è perfetto. Sì. Ah, i ragazzi che hanno realizzato il video li trovate su Facebook alla pagina Catalmedia con la K, e sono loro che hanno realizzato tutto. Sono veramente bravi. Insomma, forse ci lavoreremo di nuovo, perché insomma è stata una bella esperienza. Parlando di questo pezzo che dura 7 minuti, l'abbiamo sentito tutto, perché giusto, ripetiamo, se un pezzo dura 7 minuti, è giusto che l'artista venga ascoltato per 7 minuti, no? 6,90 sì. Per 7 minuti. E c'è la parte finale che è interessante, ci sono i piatti di Alessandro, poi leggermente le chitarre di Lorenzo, poi le tastiere di Enrico e il basso, chiaramente sempre presente, di Paolo, vero? E poi c'è la voce di Enrico, perché? Perché i piatti così vellutati, così appena accennati, danno proprio l'input per il ritorno della voce di Enrico. È una cosa molto positiva questa. Come tutti i pezzi prog sono costruiti ad arte, però in questo momento la costruzione da parte della band favorisce il ritorno della voce di Enrico nel pezzo. È stata un'idea di loro o è stata un'idea tua di entrare in quel momento? Beh, diciamo che essendo il brano conclusivo dell'album c'era questa frase di ritorno, è molto simile, non è proprio uguale ma è simile alla frase iniziale. Certo. E quindi c'era questo rimando che in qualche modo doveva essere inserito. Abbiamo optato per mantenere la costruzione iniziale cambiando un po' la melodia. Sì, ecco. Esattamente. Questo gioco di piatti era ideale. Dava proprio benissimo. Sì, comunque la scelta musicale è loro. Mm. Io ho semplicemente detto che ci sarebbe da mettere questa frase conclusiva. E loro hanno fatto il resto. Perfetto. Benissimo, 23 e 27. Adesso avremo sì un pezzo da far sentire dal vivo. È il brano Nelle notti più lontane, ed è, diciamo, l'unico brano che anche nell'album è in acustico. Perfetto. È, più che altro costruito. Dove nasce l'impostazione delle notti più lontane, caro Enrico? Nelle notti più lontane, diciamo che è un testo che avevo iniziato a scrivere diversi anni fa, che poi abbiamo ripreso in mano, perché ci affascinava un po' anche il tema del mare, perché secondo me è strettamente legato al tempo, perché quando sei in mare il tempo si dilata. È vero. E quindi abbiamo parlato di questo ipotetico capitano che parte per non si sa quale ragione e non si sa né cosa perde né cosa trova. Nasce anche come mio cruccio, diciamo, questo pezzo di fare un brano piano e voce dentro all'album, che spererei di continuare anche nel secondo con questa cosa. Sì. E mi piace molto, il testo mi sembra adattissimo rispetto agli altri, mi sembrava quello più adatto, diciamo. Benissimo, lo sentiamo allora adesso. Vegliero bianco che solcava il grande oceano. Un giorno il capitano, preso dalla nostalgia, si mise a guardare il cielo con un poco di follia tra brame e paure. Di stelle fece razzia. Stelle sappiano contare i passi che le separano dal mondo. Nemmeno le più belle non sanno immaginare i sogni e i desideri che l'uomo ha con sé. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Allora, 23:32 minuti primi, ancora 30 minuti circa in compagnia dei Marchesi Scamorza. Maurizio. Possiamo dire che questo era un pezzo molto molto bello. Tiro una battuta. Poteva essere anche un singolo questo qua, secondo me. Perché no? Questo piano, questa melodia, più che altro, sì, era un piano un po' particolare, non particolare, è una melodia fatta al piano, poi c'è l'aggiunta delle tastiere di Lorenzo, però poteva essere un singolo, è un pezzo melodioso, proprio con la M maiuscola, secondo me, sì. Ci stava bene, romantico, malinconico anche decisamente. Sì, sì, esattamente. La scelta è proprio quella. Ma secondo me poteva andare, è una provocazione forse ad essere un singolo, non si usa. Ma più che altro era un po', diciamo, il brano che esce di più forse dal filone del disco, non come tematiche, no, ma come proprio genere. Cioè, sì, si allontana. Secondo noi ci voleva, anche per riposare, no, chi ascolta l'album, certo, diciamo. Sì. Per staccare un attimo. È una ballad, sì, col piano. Diciamo di sì. Possiamo identificarla così, anche se che poteva essere la chitarra, è stato utilizzato il piano. Secondo me dava proprio bene, poteva, è un'idea, dai, un'idea. Ah, l'abbiamo realizzata live solamente una volta. Perché è difficile farla in live, secondo voi? Ma più che altro bisogna avere un ottimo lavoro di spie. Se si hanno due tastiere diventa una cosa un po' difficile. Ah, ho capito. Perché, insomma... Poi avendo sempre i minuti contati, tentiamo di prendere di pezzi più con più, insomma, con più tiro. E adesso un momento, tu hai detto una frase un po' polemica. Abbiamo sempre i minuti contati. Cosa vuol dire abbiamo sempre i minuti contati? Live spesso, anche se si parla di concorsi insomma anche noti, abbiamo anche vinto un concorso l'anno scorso, tanto per che concorso avete vinto? Il come si chiamava? Non mi San Patrizio Rock, vicino a Ravenna. Quanti gruppi c'eravate? Eravamo in 12 gruppi in totale. Sì, in quella serata erano in 3 4, 3, 4. Sì, ci sono state, ho capito, c'è una schermatura pratica delle cose. E quindi lì abbiamo fatto solo tre brani, i nostri tre che ci venivano meglio, diciamo. Sempre con tempi limitati. Esatto, quindi avremmo voluto far sentire questo, altri due o tre, cioè, insomma, avevamo già qualche inedito oltre ai brani dell'album, però non c'è stata l'occasione. C'è stato verso. Diciamo che ho un grande sogno di fare 2 ore, che adesso è assolutamente... qua ne avete fatto quasi due. Sarebbe bello. Infatti, ma ci stiamo anche però ecco, molto. Già l'ora al momento per noi è... perché c'è sempre questa mezz'ora scarsa, compreso il cambio palco, quindi è sempre un 25 minuti stirati. Il giorno che avremo un concerto tutto per noi, avremo tutto il tempo che vogliamo. Dobbiamo sottolineare, caro Gil, tu lo sai, che è la prima volta in assoluto che i ragazzi suonano in una radio, quindi è una cosa molto positiva. È un grandissimo piacere per noi. Decisamente anche per noi. Non è da poco, ripeto, è difficile suonare il prog in acustico. Il prog è per autonoma, è sempre collegato al discorso dell'elettrico. Sì. Ci sono delle ballate prog anche in acustico, però è un po' limitato. Sì, sì, sì. Speriamo di aver fatto le scelte giuste. Sì, ma vi state comportando molto bene, secondo me. Assolutamente. E anche gli ascoltatori sicuramente saranno soddisfatti. Speriamo. Benissimo, 23 e 36. Adesso abbiamo, mi pare, caro G, ancora qualcosa dal disco, cosa dici? Sì, abbiamo ancora un passo ogni parola. Un passo, la vuoi annunciare prima, Enrico? Ma un passo ogni parola è un brano molto pensato. Forse il più pensato, ci abbiamo perso molto tempo, ecco, ma volentieri ovviamente. È stato un testo difficile allora? Anche, è un testo molto criptico questo, forse più di tutti, secondo me. Sì. Perché si parla essenzialmente di momenti e il protagonista è un poeta. Un poeta. È un poeta che piange. Piange, però io, come inteso come mio interiore, forse non lo so, gli dico non piangere, perché c'è già qualcuno che piange per te. Ho capito. E questa è la prima, sono i primi versi. E il resto si sviluppa su una serie di momenti, fino poi a una parte finale diversa e uno sviluppo sul finale molto elaborato musicalmente. Sì. Perfetto, lo sentiamo allora. Thank you. la strada non ti aiuta. Sporca, è scura, non può andare bene per viaggiare. Ma se cerchi un destino fatto su misura, vai e scegli un'altra strada. Cercare di vincere le paure, spostati, togliti dalla mia strada, ora che sono tornato qui per te. Pensare a quest'onda che mi trascina via, tu non sai quanto è sporca quest'acqua che mi fai bere, tu lo sai che non è lontana e quando vorrai sarà sempre lì. Sta solo a te camminare, passo dopo passo tornerai a guardare il sole insieme a me. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:50 minuti primi, ancora 10 minuti circa in compagnia dei Marchesi Scamorza. Allora, esaminiamo un momento questo pezzo, visto che abbiamo 10 minuti, poi l'ultimo pezzo sarà dal vivo. È assolutamente un inedito, e questa sì, è una cosa molto positiva per noi. Siamo onorati di questo. Parliamo di questo pezzo che è molto potente, violentissimo, non violentissimo, potente, mi diceva Paolo, manca il fiato dopo aver fatto un pezzo simile, è così Paolo? Sì. Mettiti vicino al microfono. Quando lo suoniamo dal vivo, dopo che l'abbiamo suonato, hai veramente il fiato corto. Perché vuol dire poi... che date tutto praticamente. Sì, sì, esatto. Abbiamo dato tutto in sala registrazioni perché forse a livello di tracce questa è quella venuta meglio. Come quante volte l'avete ripetuta? Poche volte oppure no? Ma poche forse, no, Sì, dipende, perché dipende. Io penso di averla cantata quasi tutta ad un fiato. Ah, quindi. Dopo ovviamente la voce è stata un po' sistemata così, certo, però, certo. Però per quanto riguarda loro, cioè, loro hanno avuto la parte veramente più complessa, perché comunque qua il testo è molto poetico e in qualche momento spingo di più, però resta abbastanza lineare. Invece loro hanno avuto la parte veramente difficile. Poi una cosa della voce di Enrico, hai usato il delay per dare questo effetto particolare. Sul finale abbiamo scelto questo effetto, abbiamo messo solo questo, quindi la voce è pressoché naturale, e con questo effetto di delay che di solito si applica alla chitarra. Certo. E invece l'abbiamo messo la voce. Che Keith Emerson, per ragionare con un tastierista famoso, anche prog, pugnalava la tastiera. Lemond, sì, sì, tu sì. Non lo pugnali Lemond? No, mi tengo però, queste. Però sembrava che pugnalassi Lemond. E poi una cosa positiva, voi cari ascoltatori non avete visto, io ho visto che Alessandro provava sui jeans con le bacchette quel pezzo che farà fra qualche secondo. Come mai Alessandro provavi sui jeans con le bacchette, le spatole, come si chiama? È un tic. Io sono le spatoline anche con le bacchette sulla... sui jeans. Perfetto. Sì. è bello, positivo. Cosa dici di questa immagine romantica dei jeans con le bacchette? È meraviglioso. loro suonano con tutto. Esatto, suonano con tutto. Per stare in movimento. Poi la mamma non è contenta, però ogni settimana jeans nuovi qua. Come giro. E un'altra cosa da sottolineare, Lorenzo, anche lui si divertiva molto in questo pezzo. Io non eri che ami molto Santana, però qualcosina di Santana vagava, no? Sì, può darsi. Un po' darsi. Carlos, lo hai visto di recente, Carlos? No, lui non l'ho mai visto al vivo. Non l'hai visto. È però... suonato proprio qualche settimana fa qua a Padova. È comunque una leggenda. È una leggenda perché è un gruppo... Mi fa piacere ricordarlo, ecco. È una leggenda, è un gruppo leggendario. Quando suona degli assoli lunghissimi, ma non danno fastidio. Ci sono gli assoli troppo tecnici, Steve Vai, Docet, esatto, che... Sì. Non so se possono anche dare fastidio, però Santana è un po' diverso. Come infatti assoluto. Io le preferisco più espressivi. Esattamente, più espressivo. Sì. Io non c'ho niente con Steve Vai, tutti gli amanti di Steve Vai, ce ne sono tantissimi in giro. Per Steve Vai molto tecnico, molto molto tecnico. È troppo virtuoso, esattamente. Bene, adesso facciamo una cosa fondamentale, dobbiamo dire i vostri riferimenti, dove si può trovare l'album. Allora, dottore, Enrico. Allora, intanto il sito www.marchesescamorza.com. La pagina Facebook dove potete anche ordinare il nostro CD forma fisica anche. Esattamente, sì. Proprio lì, oppure potete ordinarlo sul catalogo www.btf.it, che è uno dei maggiori distributori prog nel nostro paese italiani. E poi si compra anche su iTunes, Amazon, sì, digitalmente su iTunes e su Amazon si trova brani singoli e anche l'album intero. Su YouTube ci sono tutti anche i brani più il video di autunno. Per la copia fisica comunque soprattutto pagina Facebook o BTF. Vi aveva dato una mano qualcun altro nel disco che dobbiamo ricordare? Beh sì, un grazie particolare a Paolo Martorana, che poi è il titolare della J Record, che ci ha anche aiutato diciamo con la copia fisica e anche con il web. E grazie a lui insomma che stiamo un po' girando, ecco. Bene. Quindi un grazie particolare a lui che ci aiuta sempre. Tutte le persone che ci seguono, chiaramente voi soprattutto che ci hai dato questa possibilità. Grazie a voi. Basta. E direi che ringraziamenti. Siamo a posto. E ultima cosa, se avete delle date da gestire. Allora, abbiamo suonato, pochi giorni fa, però adesso siamo un po' fermi perché andiamo in ferie anche noi. Andate anche in ferie. Un pochino sì. No, però... Anche Gil va in ferie. Ah, noi no, noi siamo qua, noi continuiamo. A breve uscirà un pezzo nuovo che... Sì. Ecco, adesso possiamo dirlo, io non so, neppure Gil sa come sarà il pezzo nuovo. Ma ci sono delle idee leggermente differenti dalla tematica di questo disco? Decisamente. Siete cresciuti allora? Direi. Sì. Questo in particolare, che uscirà per una raccolta sotto un'etichetta francese di cui non ricordo adesso il nome. Non importa. È una doppia raccolta sulle novelle del Decameron di Boccaccio. A noi ne abbiamo scelta una, abbiamo fatto il testo. Musicate. Esatto, esattamente. E quindi sì, penso che verso fine settembre pubblicheranno questa raccolta e ovviamente sarà disponibile anche sul web il nostro brano. Quindi single. Una cosa importante, visto che è un'etichetta francese, una raccolta di un'etichetta francese, quindi la musica dei Marchesi Scamorza sicuramente può darsi che abbia un retroscena estero, cosa dite? Sì, diciamo che abbiamo avuto molti ordini di CD dal Giappone. Vedi, vedi. Dalla Lituania. Anche dalla Lituania. E dalla Finlandia. E dovete andare in Lituania, in Finlandia e in Giappone. Prossimo giretto. Prossimo giretto. No, è una cosa positiva, assolutamente. Sì, sì, positiva. Assolutamente. Noi siamo anche abbastanza stupiti, anche perché secondo il catalogo della BTF siamo tra i CD più venduti negli ultimi mesi. Più richiesti, quindi insomma, bene, una cosa molto positiva. Sì, decisamente. E Giappone è una terra proprio magica per i prog. Speriamo. Per i rock. Bene, bene, non si sa mai nella vita, può darsi. Il Giappone non è lontanissimo, è un po' lontano, ma non lontanissimo. Ah no, non impossibile. Si può raggiungere ci di si tutto. Arriva, ci si arriva. Piano piano. Piano piano. Caro Gile, abbiamo finito. Abbiamo finito. Io volevo ricordarvi anche che questa diretta, questo live, lo troverete tra qualche giorno nel nostro sito di blueradioveneto.it. E appunto la voce live, voi cliccate lì, ricercate questa serata e potrete riascoltarvi tutta la trasmissione. Io vi ricordo anche i brani dal CD che abbiamo ascoltato in ordine, che sono stati Lo schiavo di Babilonia, Sentieri di carta, Autunno, che è legato al video, Un passo ogni parola e Castello delle stagioni, bellissima tra l'altro molto bella, e che è finita, cioè che abbiamo finito il disco con questo pezzo, però non finiamo il programma, manca ancora qualche minuto. Come lo finiamo il programma stasera? Con una sorpresa, un inedito. L'abbiamo svolto solamente due o tre volte dal vivo, è la prima volta in radio, assolutamente, questa è assoluta, e quindi è una sorpresa un po' per voi e anche per noi, perché in acustico è la prima volta, e anche per gli ascoltatori, ovviamente. Benissimo, domani ci sarà Agostino, ore 21, ritorna Agostino e con un gruppo di Venezia, della nostra provincia, anche se sono mantovani d'origine, proporranno una musica fra il cantautorato e il blues, una cosa molto interessante, come sempre, come tutte le nostre proposte. Ascolteremo. Bene. Io ritornerò tra un paio di settimane. Sì, buone vacanze. Grazie. E vogliamo allora salutare uno per uno, certo, i Marchesi Scamorza. Grazie Enrico Bernardini. Ciao a tutti. Grazie Enrico Cazzola. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Romani. Ciao, grazie a voi. Alessandro Padovani e la batteria, mi raccomando i jeans. Grazie, ciao. E grazie a Paolo Brini. Grazie, buonanotte. Grazie Maurizio. Grazie a te Gil. E grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto di Blue Radio Veneto. Buonanotte a tutti e grazie. Che ci trasporta oltre quelle avide strade, le parole non servono più, con un deserto che ci aspetta, bella senza destino, lasci tutto così, eterna tra le torri che reggono il tuo tormento. Thank you. cadere, sentiamo l'acqua cadere, sentiamo l'acqua cadere.